18, 18 minuti e 10 secondi, inizia la terza parte di 24 mattino, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è lunedì 16 novembre e se volete potete intervenire come sempre all'800 24 00 24 o al 349 238 6666 per invece per gli WhatsApp e WhatsApp audio. Alle 8.35 avremo ospite il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà poi con noi il Sottosegretario all'Economia del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa, col quale ovviamente parleremo delle misure economiche in arrivo del decreto Ristori Terre, della manovra che oggi verrà sostanzialmente riscritta, oltre che di politica, perché ieri è stata una giornata importante, come dicevamo, proprio per il Movimento. È il momento, come sempre, però, adesso di un punto con il nostro Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno, eccoci. Buongiorno, allora partiamo proprio dal Movimento 5 Stelle, questi stati generali. Libero l'ha definita una riunione di alcolisti anonimi, ma non lo dice criticamente, lo dice per descrivere, secondo me, efficacemente il clima, cioè molte confessioni di colpa e molte promesse da adesso in poi ci comporteremo benissimo, faremo un direttivo. L'unica cosa che ha rotto un po' gli schemi è stato il solito Di Battista, che ha detto che molti fra i suoi critici si genuflettono ai padroni. Crimi si è dichiarato offeso, la Lombardi dice che Di Battista è un egoista, pensa solo ai suoi voti e non alla base. Nel frattempo Alessandro Sallusti sul giornale, il direttore del giornale, si diverte a prendere in giro il direttore del Fatto Travaglio, perché anche lui, Travaglio, ieri ha usato toni critici, ha detto datevi una mossa, qui non potete andare avanti con gli scontrini e le vostre stupidaggini, e Gianluigi Paragone, che non è più dei 5 Stelle, è uscito, chiede chiarimenti, continua da qualche giorno a chiedere chiarimenti su un incontro fra Patuanelli e Castellucci, autostrade, non riapriamo il capitolo della caducazione, ma continua a gettare ombre. C'è sempre il tempo. Frattempo però i 5 Stelle hanno ottenuto una grande soddisfazione, perché sul MES è cominciata un'autocritica dei grandi dirigenti del PD o ex. David Sassoli ha detto che ci vuole un meccanismo diverso, l'Europa deve cancellare i debiti con i paesi colpiti dal Covid, cioè con tutti i debiti, perché tutti, Enrico Letta ha detto che il MES è come si chiama? È anacronistico, che va superato. Sì. Paolo, è curiosa questa dichiarazione che abbiamo visto di Sassoli di ieri, l'idea di cancellare il debito, tanto che se hai visto nel fine settimana Salvini se ne è appropriato e ha detto guardate è quello che diciamo da mesi. No? È ovvio, ma anch'io e te lo diciamo sia pure per le dimensioni private, cancelliamo i debiti, chiunque fa debiti. Esatto. Gli piace la teoria di cancellare i debiti, ovvio, e quindi festeggiamo questa grande scoperta che bisogna cancellare i debiti, ma cancellare i debiti di tutti significa tornare alla... siccome tutti sono colpiti dal Covid, significa tornare alla casella di partenza e poi i problemi rimangono, perché Tremonti oggi ci fa un'intervista, dicono questi qui ci offrono da bere con i nostri soldi, ci invitano a festeggiare con i nostri soldi, ma ti dicevo, a parte la festa del MES, e Conte pare che adesso sia, proprio mentre lo criticano Sassoli e Enrico Letta, lo vorrebbe per fare un favore a Berlusconi e Zingaretti, che nel frattempo si sono messi d'accordo, insomma Berlusconi passetto sta entrando in area di maggioranza, e Bettini cosa fa? Scrive una lettera al Corriere per... Abbiamo anche l'epistolario di Bettini. Cosa facciamo? Lo raccogliamo in un nuovo libro o lo teniamo in quello di Zingaretti? No. Lo teniamo in quello di Zingaretti come appendice. Io ti ho già detto che ho raccolto una quarantina, che adesso sono 50 lettere di Zingaretti, 50 di cui 40 sono per chiedere il MES, che adesso Sassoli e Letta criticano, e adesso c'è anche un appendice con una decina, quindicina di lettere di Bettini. Che bello. Ti sarei accorto che non sono partito dal Covid, perché io mi rifiuto di partire dal Covid almeno il lunedì, perché il lunedì arrivano i dati farlocchi, quelli limitati, raccolti il sabato e la domenica. Sì, tra l'altro Paolo, tra l'altro in assoluto qualche perplessità su questi dati c'è. Io ieri ho visto in mezz'ora di Lucia Annunziata, nella quale tra l'altro eri ospite tu, e c'era il presidente dell'Accademia dei Lincei Parisi, che ha detto questo, sentiamolo. La non affidabilità del calcolo dell'EVT è chiarissima. Lei sa benissimo che quando si danno le forchette, quando si fanno l'exit poll, ci sono le forchette e i dati, si dice entro che forchetta stanno. Per l'EVT è esattamente la stessa cosa. L'EVT della settimana scorsa è 1,41, ma la forchetta da 1,08 a 1,80. Quindi a questo punto è una forchetta enorme. Non ha torto Parisi. Vorrei ricordare che Giorgio Parisi è un fisico, un matematico ed è un genio, un uomo da premio Nobel, e questa osservazione fatta ieri anche con un articolo pubblicato sull'Huffington Post ci ha messo tutti con le spalle al muro, non ha torto. Ci ha spiegato che l'RT è calcolato come gli exit poll la sera delle elezioni, con una forchetta che è così larga che uno dice vabbè, ci può stare dentro tutto, pazzesco. Sempre su questo fronte, allora ti dico anche che Johnson è stato rimesso in isolamento, che ebbe il Covid, il primo ministro inglese, perché ha incontrato una persona affetta, e che il giornale dei tumori ha rivelato che dalle indagini che ha fatto il Covid l'istituto è attivo dei tumori in Italia dice. Sì. Il giornale dell'Istituto dei Tumori, che ha rivelato che il Covid è attivo dal settembre 2019. Insomma, c'è qualcosa. Sì, Arcuri, piccola nota, Paolo, permettimi, è una piccola nota su questo. Ieri ho sentito le dichiarazioni della professoressa Antonella Viola, che è stata ospite nostra, tra l'altro, altre volte. Sì. E guarda, te la farei sentire, perché su questo molto si è parlato, ovviamente molte pagine ci sono sui giornali, però Viola dice, guardate che è facile da confondere. Sentiamo. Allora, il fatto di aver trovato questi anticorpi ha fatto pensare che effettivamente questi anticorpi fossero estremamente specifici e quindi che ci potesse essere davvero un virus preesistente. In realtà pensiamo che lo stesso studio è stato fatto negli Stati Uniti, ma i ricercatori sono arrivati a una conclusione completamente diversa, e cioè che esistono degli anticorpi che sono generati dagli altri coronavirus, quelli del raffreddore, che cross-reagiscono con il SARS-CoV-2. Quindi è questa la spiegazione più logica che ci possiamo dare al momento. Quindi raffredda un po' gli animi, la professoressa Viola, mi sembra, autorevolmente, mi pare. Però, prego. Sì, dimmi, dobbiamo dire che ancora sono tutte questioni molto aperte, ecco, abbiamo, è un campo dove non abbiamo certezze, anche quello dei vaccini, insomma c'è qualcosa ancora da definire, lo dico con ottimismo, animato da spirito ottimistico, perché poi si definiranno, però è ancora un campo aperto. Sì. E poi c'è... Che caso c'è? Calabria. Il meraviglioso cinema calabrese, caro Paolo, che si arricchisce di queste parole di Gino Strada, scritte su Facebook, poi riportate oggi ovviamente dai giornali, nei quali dice, vabbè ragazzi, il governo me l'ha proposto, e io francamente... Andatevene pure a quel paese. No, perché dice, me l'ha proposto in modo vago, ma ha telefonato Conte, poi hanno lasciato cadere. Gli hanno fatto lo stesso scherzetto che fu fatto al procuratore Di Matteo quando fu convocato, telefonato per il DAP, cioè fanno delle telefonate, quindi lo dico ai nostri ascoltatori che sono dei super tecnici, se vi telefona qualcuno del governo per proporvi qualcosa, fatevi mandare una mail, una proposta scritta, dice guardi, grazie Presidente del Consiglio, Ministro Speranza, mi mandi per favore una mail che così capisco meglio di che si tratta, perché è una pioggia, tra l'altro... Zuccatelli, questa proposta Strada all'aria di essere una trovata un po' propagandistica per nascondere il vero caso, che è quello di Zuccatelli, l'uomo che le mascherine non servono e che bisogna solo baciarsi in bocca per un quarto d'ora per contagiarsi di Covid, che ne ha fatto un'altra, il fatto definisce fesseria, cioè per giustificare la sua teoria che le mascherine non servono, ha tirato fuori la sua fonte, che è un articolo di Imola Oggi, dove dice sì, che secondo studi... Tu sai Imola Oggi che cos'è, no? È il giornale, quel giornale online ultra sovranista legato all'ultradestra. No, è fantastica questa non cosa. Non ti sto dicendo, dove dice che secondo studi americani, Imola Oggi, le mascherine trasformano gli asintomatici in malati, cioè tu tenendo la mascherina, questo è il capo della sanità calabrese, che siccome è di Leu, era stato un candidato alle elezioni di trombato. Speranza lo difende e lo lascia a capo, cioè nessuno dei suoi dei capi di Leu gli ha detto ma scusa intanto poi verrà forse Strada o chi per lui, se rivive anche Ernesto Che Guevara che era medico, si può chiamare chiunque, capisci? Però intanto tu vattene, perché sì. Se tu sei la tua fonte Imola Oggi, sarebbe il caso che te ne andassi. Invece in una grande scuola di partito, quando il tuo candidato riceve colpi, tu lo difendi e fai finta di niente. Paolo, allora abbiamo parlato molto di politica italiana, abbiamo anche parlato di Covid e ci abbiamo anche scherzato sopra. Adesso una questione molto seria, che è quello che sta succedendo in Etiopia, dove il premio Nobel per la pace, un po' come è successo in Myanmar, Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi, cioè solo che Aung San Suu Kyi era, il Nobel l'aveva ricevuto una trentina d'anni fa. Questo, il capo di Stato etiope Abiy Ahmed, l'ha ricevuto l'anno scorso e dopo aver ricevuto il Nobel adesso si trova al centro di una guerra di cui non ha colpe, però parte delle colpe. Fra Etiopia, Tigray e Eritrea sono stati ieri razzi su Asmara, una situazione terribile, e c'è un imbarazzo mondiale e soprattutto dell'Accademia dei Nobel per l'uomo che ha ricevuto l'anno scorso, nel 2019, sottolineo, il Nobel per la pace e si trova in mezzo a questo caos. Come c'è imbarazzo, lasciamelo dire perché questa notizia mi ha colpito, sui Boy Scout. Perché l'organizzazione dei Boy Scout americani, che è la più antica, fondata nel 1910, così, ha ricevuto 81.000 denunce, te lo sottolineo, per abusi sessuali, e un giudice del Delaware sta facendo una procedura per bancarotta. I giornali americani stamattina dicono, anzi ieri mattina diciamo la verità, dicono che questo è uno scandalo più grande di quello della Chiesa come entità, cioè i Boy Scout sarebbero stati infettati da questo virus, quello degli abusi sessuali, più di quanto lo sia stata la Chiesa, e i giornali americani, come sai, sono molto sensibili perché la Chiesa americana è una tra le più infettate. Paolo, ci sentiamo domani mattina dopo il GR delle 8. Buona giornata. Grazie a te, grazie. Ciao. Ciao. Mattino. Le 8:35 minuti e 20 secondi. Adesso apriamo un capitolo pandemia, ma non parleremo solo di quella, naturalmente. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Eccoci. Buongiorno a tutti. Inizierei dai test fai da te. Ieri lei ha annunciato che partirete con una sperimentazione che effettivamente, se dovesse funzionare, Zaia, sarebbe rivoluzionaria, perché consentirebbe a tutti, senza dover fare la fila facendo un tampone, di verificare se si ha il virus oppure no. Come funziona? Ma guarda, mi lasci dire innanzitutto che è stata rivoluzionaria anche la sperimentazione che abbiamo fatto in Veneto per introdurre i tamponi rapidi, perché oggi si fanno tanti tamponi ma sono rapidi, e noi abbiamo iniziato dai tamponi coreani quando c'erano solo quelli. Oggi sono 30 aziende che li piazzano sul mercato. Ma noi abbiamo sostanzialmente, siamo partiti con questa sperimentazione col dottor Rigoli, che è il coordinatore della microbiologia del Veneto, della microbiologia di Treviso. Abbiamo seguito la realizzazione di questo tampone, diciamo fai da te, un tamponcino grande, scusi, come un cotton fioc, che poi ha già un suo reagente e fa la reazione con la solita saponetta. Abbiamo già iniziato a Nord Alvero la prova in doppio con tampone molecolare sui pazienti, dà già risultati incoraggianti. Adesso si tratterà di fare una sperimentazione bella profonda i pazienti ci sono e quindi abbiamo anche modo di avere massa critica e dati per analizzarli. Quanto, che tempi avete, Zaia? Ma guardi, io penso, siccome di pazienti ne abbiamo migliaia, consideri che in questo momento abbiamo 2200 pazienti ricoverati e poi abbiamo la bellezza di quasi 50.000 persone positive in Veneto. Io penso che verosimilmente la sperimentazione si possa fare con velocità nel giro di massimo un paio di settimane. Consideri che abbiamo già iniziato, io direi da qualche mese, perché poi è stato messo a punto il sistema, sono state fatte delle modifiche allo strumento, all'hardware, insomma si è lavorato, il dottor Rigoli sta lavorando almeno da 3 mesi a questo progetto. Zaia, lei si fida dei dati e quindi e delle decisioni prese dal governo sulla collocazione delle regioni in zona gialla, arancione o rossa? Perché alcuni suoi colleghi, presidenti di regione, hanno espresso dubbi. Per primo penso pensando a uno dello stesso colore del governo, Gianni, il presidente della Toscana. Ma guardi, io penso che cioè, è un'utopia pensare che ci sia un frullatore nel quale tu metti dentro tutti gli ingredienti e ne viene fuori un prodotto finito. Ed è anche abbastanza aleatorio pensare che possa esistere un algoritmo che poi sia l'esatta, ci dia l'assoluta immagine della realtà. La verità è che poi ci vuole buon senso, ci vogliono anche delle valutazioni che vanno al di là poi dei numeri. Faccio un esempio, noi abbiamo fatto come 3 zone gialle, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto, abbiamo portato avanti questa ordinanza, come l'ho chiamata io, della zona gialla plus. Pensare che il Veneto sia rimasto in zona gialla e che le altre 2 regioni fossero così devastate da passare in zona arancione, decisamente no. La verità è che questa è la follia a volte anche dei numeri, no? delle formule. Poi ci sono degli elementi da valutare che hanno un elevato valore di discrezionalità, pensi non so, la pressione ospedaliera, il livello di organizzazione che va al di là della percentuale di terapie intensive occupate, quanta e come la fai la terapia domiciliare, per dire noi adesso diamo i saturimetri. Quindi Zaia, brutalmente questo metodo non la convince in sostanza? Ma guardi, questo metodo l'abbiamo provato come regioni ed era sostanzialmente un'occasione per avere un benchmark, no? Un punto di riferimento, poi è diventato un elemento di giudizio, io penso che dovrà essere modificato. Zaia, a fronte delle tensioni che si sono verificate tra le regioni e il governo in questi mesi, innegabili, fin da marzo a dire il vero, e che adesso stanno raggiungendo in alcuni casi livelli ancora più forti, penso alle polemiche di ieri di De Luca nei confronti dell'esecutivo, e il governo sta pensando, almeno questo leggiamo dai giornali, di rivedere il sistema delle competenze e quindi il cosiddetto titolo quinto della Costituzione, quindi rivedere il federalismo. L'ipotesi che sta circolando è di una progressiva centralizzazione delle competenze. Come la vede lei, che in realtà sta ancora aspettando l'autonomia? Ma la vedo come una follia, soprattutto quello che è stato annunciato di introdurre la clausola di supremazia nazionale. Beh, è vero che ci sono dei paesi che ce l'hanno, tipo la Germania, ma la Germania è un paese federale. Nel momento in cui c'è bisogno di una regia nazionale, in uno Stato federale si invoca la clausola, ma che in un paese centralista come l'Italia, diciamo profondamente centralista come l'Italia, si invochino ancora competenze, mi viene da sorridere. Guardi, le do solo un dato per far capire che si lamentano del nulla. Dal 21 febbraio, inizio della pandemia, ad oggi, il governo non può solo che dire che le regioni hanno votato tutti i provvedimenti che il governo ha proposto. Glielo ripeto, abbiamo votato tutti i provvedimenti che il governo ha proposto. Allora, se poi c'è anche il tema di togliersi il fastidio di qualcuno che magari fa qualche commento, allora questo è un altro discorso, ma non è più un tema, diciamo, istituzionale, è un tema di fastidio e basta. Finita la pandemia, il capitolo si dovrà aprire, Zaia, mi sa. Anche quello dell'autonomia. Guardi, da me non si è mai chiuso. Noi siamo andati a votare per l'autonomia, molte regioni chiedono l'autonomia. Il futuro e il rinascimento di questo paese passa attraverso l'autonomia, che è una vera assunzione di responsabilità. Se vogliamo restare al Medioevo, continuiamo così col centralismo. A proposito di centralizzazione, alcune cose sono state e saranno inevitabilmente centralizzate. Una di queste è la gestione della distribuzione del vaccino anti-Covid nel momento nel quale ci sarà. È preoccupato dal fatto che tutto sommato si sia partiti la settimana scorsa, Zaia, o voi vi siete mossi con anticipo? Ma guardi, cioè l'acquisto delle provviste avviene coordinato, c'è cioè un coordinamento a livello nazionale, quindi dei vaccini. Dopodiché c'è una distribuzione territoriale, c'è un gruppo di lavoro, il Veneto come al solito mette in piedi la sua rete a prescindere, in modo tale di essere pronto a non solo a distribuire ma anche a somministrare i vaccini, perché ricordo che sono milioni di dosi, sono milioni di iniezioni che poi vanno ripetute con altri milioni di iniezioni. Insomma, noi abbiamo una macchina collaudata, vedremo di portarla allo stress test anche con questa vaccinazione di massa. Quindi vi state preparando anche voi singolare, cioè non state aspettando Arcuri per intenderci? Beh, guardi, l'approvvigionamento passa a livello nazionale, sì. Per cui però la gestione complessa di questo vaccino, no? La catena del freddo, i meno 70, ai quali deve stare, eccetera, eccetera. Ma guardi, quando arriva nei confini del Veneto, è in mano ai Veneti, la sua sorte è in mano ai Veneti, l'organizzazione è in mano ai Veneti, perché funziona così. E quindi lo gestirete voi. E quindi ci arrangiamo noi. Zaia, si faccia trasportare per un attimo a livello internazionale. Chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti? Io penso che ha vinto le elezioni, a me sembra che sia chiaro che le abbia vinte Biden. Dopodiché, guardi, io voglio anche uscire da questo dibattito Biden-Trump, cioè a me risulta che non cambi nulla, cioè non è che vince una fazione o l'altra. Gli Stati Uniti comunque lo hanno dimostrato anche i mercati, avremo un nuovo presidente. E mi ricorda il dibattito al quale ho assistito da ragazzo, forse la sfida era Bush-Al Gore. Si misero un paio di mesi per dirsi chi fosse in realtà il presidente, però la verità è che poi c'è il presidente, punto. Per chiudere con lei e tornando sulla pandemia, Zaia, l'avete risolto il problema con Immuni oppure no? Perché si ricorda l'ultima volta che ci eravamo sentiti, c'era questo problema che le ASL non c'era questo problema di comunicazione tra Immuni e le ASL. Siete riusciti a risolverlo oppure no? Sì, assolutamente sì, è un problema che aveva un'altra regione, però le ricordo che resta il problema, nel senso che Immuni, ricordiamo i cittadini che ci ascoltano, manda un messaggio al telefonino di chi ha avuto un contatto stretto per più di 15 minuti a meno di 2 metri con un positivo. A questo punto rientra nelle prerogative di chi riceve il messaggio di recarsi da un medico oppure no. Cioè, questo è il grande limite di Immuni. Ma le notifiche sono aumentate, Zaia? Che voi sappiate. Non ce l'hai. Immagino anche che siano aumentate in funzione poi anche di quanti abbiano scaricato Immuni, ma non ne facciamo una questione politica. In Veneto siamo impegnati su ben altri. Sì. Voi riuscite a tracciare? Noi riusciamo con difficoltà a tracciare, consideri che noi facciamo 53.000 tamponi al giorno, cioè lei capisce che più o meno con 3.400 positivi ci sono almeno ogni giorno 33-34.000 nuove persone da testare. Che è un numero notevole, quindi con difficoltà si riesce. Ma del resto, guardi, l'unico sistema è quello di fare i tamponi, di fare il testing, e a ringraziare Dio che abbiamo i test rapidi, cioè che abbiamo i tamponi rapidi, perché se dovessimo affidarci solo ai molecolari non ce la faremmo mai. Grazie Luca Zaia, presidente del Veneto. Buongiorno. Buona giornata. Buona giornata. Una pausa. Mattino. Buongiorno ad Alessio Villarosa, sottosegretario all'economia del Movimento 5 Stelle. Villarosa, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Allora, si sta preparando un decreto ristori ter, Villarosa, con uno scostamento di bilancio nell'ordine dei 15-20 miliardi, se ho capito bene, nuovo deficit. Sì, ancora la cifra esatta non c'è, però sarà sicuramente attorno ai 20 miliardi. Io sono da 3 settimane che lancio proposte per fare questo scostamento, finalmente ci siamo decisi e a breve arriverà. Purtroppo abbiamo dovuto presentare prima la legge di bilancio, perché sennò ci sarebbe stato un problema con tendenziale, quindi bisognava per forza operare così. Cosa ci sarà dentro questo terzo giro di ristori, Villarosa? Bisognerà sistemare il metodo di calcolo, perché come sollevato più volte ci si è concentrati nel primo decreto ristori sul calcolo aprile su aprile, ancora non si sapeva la durata della pandemia, e l'ultimo decreto ristori è stato fatto sempre con lo stesso metodo, ma per un semplice motivo, perché era l'unico metodo che ti evitava di far rifare la domanda all'imprenditore, e potevi direttamente con un tasto inviare l'ulteriore ristoro senza far fare nessuna richiesta. E infatti in 10 giorni lavorativi sono arrivati i bonifici alla maggior parte delle persone che avevano già ottenuto il primo. Oggi bisognerà fare un calcolo che non sarà, non è più sul mese di aprile, ovviamente bisognerà farlo su un periodo semestrale, un periodo annuale, e bisognerà modificare il metodo di calcolo per le start-up e poi dare ulteriori ristori, respiri su affitti, quindi crediti d'imposta, quelli che abbiamo dato finora al 60%, provare ad aumentarli fino all'80%, insomma, più che altro risorse a disposizione per le imprese per fargli superare questi periodi di chiusura non derivante da una loro scelta, ovviamente. E con un allargamento della platea, immagino anche, certo, Villa Rosa, no? Perché codiciateco, certo, assolutamente sì. Includendo pezzi, magari persone sono rimaste aperte, però la cui filiera ha subito un impatto, son pezzi di una filiera che ha subito un impatto, immagino, sì, che più o meno l'idea sia questa, no? Certo, guardi, l'ultima riunione provavo, all'inizio il ministro non mi capiva, il ministro Gualtieri poi ha capito cosa ti stavo spiegando. Quando io chiedevo di inserire, ad esempio, le faccio un esempio, i codici Ateco del commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, non alcoliche, e giustamente uno, primo impatto, dice: ma gli alimentari sono aperti, anzi stanno vendendo, come mai chiedi l'inserimento di questo codice Ateco? Perché c'erano delle attività che lavoravano esclusivamente con attività che venivano chiuse, tipo pub, ristoranti, discoteche, quel tipo di attività indirettamente aveva ricavi a zero. Quindi se tu metti all'interno della norma un calcolo stabilendo che mi devi dimostrare un calo di fatturato, basta inserire anche i codici indiretti, avremmo fatto un'erogazione abbastanza equa. Perché a volte ci sono dei codici Ateco che, come diceva bene lei, rimangono aperti, sembra che stiano continuando la loro attività, ma sono strettamente collegati, direttamente collegati alle aziende che invece in questo momento sono chiuse dal DPCM. Non sarebbe stato meglio agire direttamente sulla leva fiscale, Villa Rosa, invece di andare con questa serie di ristori, codici Ateco, eccetera, eccetera, non con una sospensione, ma proprio con semplicemente il decidere a un certo punto: ok, tu quest'anno, nella condizione nella quale sei, le tasse non le paghi. Ma noi abbiamo lavorato sulla leva fiscale, spostando più in là le scadenze, dando la possibilità con l'ultima norma di addirittura rateizzare in 24 mesi il 50% delle tasse che ti avevamo spostato a settembre. Abbiamo ragionato anche su un'erogazione di liquidità immediata, perché c'erano attività che avevano bisogno di fondi. È vero, come dice lei, che alcune attività potevano avere una maggiore liquidità non pagando alcune tasse, ma alcuni avevano bisogno proprio di liquidità, non avevano neanche la liquidità per poter, sì, andare avanti. E quello che a noi interessa è evitare che le aziende falliscano. Se un'azienda si trova senza liquidità, ma è stato di insolvenza, non riesce a pagare il fornitore, rischia di fallire. Sì, ci sono anche molti ritardi, però, Villa Rosa. Le dico, un ascoltatore mi scrive, sì, adesso: oggi ancora zero, in attesa di 1000 euro in automatico, avendo già beneficiato del precedente. Quindi lei dice la liquidità, poi però la liquidità deve arrivare rapidamente. Bisogna vedere di cosa sta parlando la persona che l'ha scritto, perché se parla del nuovo contributo a fondo perduto, se ha ricevuto, ricordiamoci che novembre ancora non è concluso, quindi entro novembre. Contributo a fondo perduto, le posso assicurare da dati dell'Agenzia delle Entrate che il 90% delle aziende hanno già ricevuto il secondo contributo a fondo perduto, quindi chiederei al signore di contattare intanto l'Agenzia delle Entrate per verificare che non ci sia stato un problema, ma anche se in realtà si è ricevuto la prima, dovrebbe ricevere la seconda, quindi sarà una questione di giorni, glielo posso assicurare. Villa Rosa, includerete gli agenti di commercio? Noi ne abbiamo tanti che ci ascoltano e ci scrivono, includerete gli agenti di commercio? Certo, è lo stesso ragionamento che facevamo. La stiamo perdendo. Adesso, cos'è in macchina, Villa Rosa? Dov'è? Guardi, purtroppo sto andando all'aeroporto. Maledizione. Speriamo che tenga. Senta, siamo quasi in chiusura, abbiamo un paio di minuti. La voglio portare sul Movimento 5 Stelle e su quello che è successo ieri, gli stati generali, il mantenimento dei due mandati e le tensioni interne che ci sono state. Siete diventati un partito, Villa Rosa, non c'è che dire. Non mi metto in bocca queste parole. Io sono tra i primi entrati nel Movimento 5 Stelle, sono dentro questa avventura da oltre 10 anni. Oggi si è deciso di darsi una struttura. Partito non proprio, perché non avremo, almeno fino a ieri, non si è parlato di sedi regionali, di la segreteria di partito. Certo, c'è bisogno di una struttura che sia diversa. Tra l'altro, un'altra cosa che ci differenzia dai partiti, dalla discussione di ieri non è venuta fuori la richiesta di un nuovo capo politico, ma di un organo collegiale, addirittura un doppio organo collegiale come funziona il Parlamento per la gestione del movimento. Quindi una nuova struttura, ma sempre non troppo vicina alle stesse strutture che hanno i partiti, però è inutile negare che sicuramente ci stiamo avvicinando più verso quel tipo di struttura che quella che avevamo prima, più fluida. Senta, come lo vede questo Di Battista che no, lei fa parte dell'ala governista del movimento? Guarda, io non ho mai chiesto niente a nessuno, mi sono trovato al Ministero dell'Economia e Finanze senza chiedere niente a Luigi Di Maio, che era il capo politico, ha lavorato per anni nel settore delle banche finanziarie, e quindi io credo che Alessandro sia una persona importante per il movimento, ha dato tanto al movimento. E se rappresenta non una corrente, perché è giusto chiamarmi una corrente, ma un'idea di pensiero che in questo momento vuole il movimento in un altro modo, è giusto che ci sia anche lui e la sua rappresentatività all'interno del gruppo. Quindi ben vengano le discussioni, l'importante è che si rimanga nella correttezza politica, umana, insomma, all'interno di regole ben chiare e precise. E Di Battista c'è rimasto nella correttezza politica umana? Di Battista lo conosciamo tutti, Alessandro, ogni tanto magari alza i toni, però io ci vedo sempre una bontà di fondo in quello che dice, perché non credo ci sia una volontà di distruggere il movimento, ma se siamo agli stati generali vuol dire che c'è qualcosa da sistemare nel movimento, quindi se c'è qualcuno che urla e si lamenta non vedo niente di così trascendentale. Di Maio dice che dovete contare di più nel governo, però mi sembra che contiate parecchio, Villarosa. Contiamo parecchio, però ci sono dei ministeri, tipo il Ministero dell'Economia e Finanze, nei quali c'è una predominanza, secondo me, PD. E quindi vanno cambiate le squadre là dove... No, va fatta una seria discussione, che oggi è all'apice dei gruppi politici che sono in maggioranza. È bastato da dire che non esistono ministeri esclusivi di qualcuno, ma bisogna lavorare in tutti i ministeri insieme. Cioè lei si sente un po' compresso là al Ministero dell'Economia? Dal PD? Non dal PD, in realtà dal ministro più che dal PD, nel senso che anche questa legge di bilancio ci siamo molto, infatti ci sarà una discussione secondo me accesa in Parlamento, ci siamo lamentati sia io ma anche la collega Castelli della norma sulle DTA per merito alle fusioni bancarie, le tessere scarse, immagino che conoscete perché il tema è MPS, sì, fusioni, certo, e quant'altro. A quanto pare questa norma ci sarà in legge di bilancio, questa è una cosa che secondo me è molto grave, che aprirà una discussione importante in Parlamento. E quindi noto una compressione, sì, almeno nel mio ministero, quindi serve sinceramente un discorso importante con le altre forze politiche, con l'altra forza politica in generale, per cercare di lavorare insieme nel miglior modo possibile. Grazie Alessio Villarosa, sottosegretario all'economia, per essere stato con noi. Non straordinario però l'abbiamo capita, questo è l'importante. Grazie Pietro Lacorta in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione. Sentiamo domani alle 6:30. Ciao. Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it vi ha presentato Quattro Mattino.